spenti onde pericolose. Il sole cuoce tutto quello che si muove, nel freddo dentro me, profondo il vuoto che mi divora. E digerisco così un'altra giornata, una decisione sì, mi affretto a prenderla, male o bene che sia, ho voglia che vada così. Colori spenti, onde pericolose, il sole cuoce tutto quello che si muove, e il buio dentro me, profondo il vuoto che mi divora. E digerisco così un'altra giornata, una decisione sì, mi affretto a prenderla, male o bene che sia, ho voglia che vada così. Giornata, una decisione sì, mi affretto a prenderla, male o bene che sia, ho voglia che vada così. E digerisco così un'altra giornata, una decisione sì, mi affretto a prenderla, male o bene che sia, ho voglia che vada.